questo incontro l'ho già fatto in passato, è una forma un po' diversa, cioè parleremo chiaramente di Joe Zawinul, però è anche un po' una guida ovviamente, così insomma, di ascolto su quel periodo, che è un periodo che non si può definire, anzi proprio per il fatto che, cioè, non è proprio andare al di là dei generi, era una delle, se vogliamo, il genere di quel periodo, quindi c'è, cioè, delle commistioni tra jazz, rock, musica anche chiaramente del mondo, no? Perché poi Zawinul è stato anche uno degli interpreti della cosiddetta world music ante litteram. Diciamo, sul piano del l'incontro si chiama Essay in the Body, Body Electric, che è un disco, è il secondo dei Weather Report. Non è su quel disco che parleremo in modo specifico, è una, tra l'altro, una poesia di Walt Whitman. Ma per dire cosa? Che il mondo dell'elettricità nel jazz arriva abbastanza tardi, e fino ad allora era abbastanza sporadico, nel senso che a parte la chitarra elettrica, basso elettrico usato pochissimo, c'era l'organo Hammond, e per quanto riguarda il mondo delle tastiere, con l'unica eccezione di Sun Ra, che poi lo usava in un modo tutto suo, tutto sommato la tastiera era qualcosa che non veniva utilizzata. Era il pianoforte. Addirittura era un sostituto, diciamo, nel caso di pianoforti scordati a volte. Era questo, il Wurlitzer, poi dopo il Fender Rhodes. È famoso il caso di Hancock, che si trova in studio Davis, che gli porta un, tra l'altro era un RMI, lo dico all'italiana, che era una specie di Fender, insomma un po' meno fortunato, e si mette a ridere, pensava fosse un giocattolo. Poi dopo 2 o 3 anni diventa uno dei più grandi interpreti, insieme a Zawinul e Corea, diciamo, di questo strumento e altri. Chiaramente Zawinul è però, secondo me, il personaggio chiave in tutta questa vicenda. Confermo. Poi chiaramente, come sempre, Davis sente, non so, gli arrangiamenti di Gil Evans e poi fa la cosa. Esatto. Sente, bravo. Bill Evans dopo e fa Kind of, cioè. Ma ancora ai tempi di Bill Thornton, sente Bill Thornton e il Cool Jazz, Bertolt the Cool, cioè Davis sublima quello che ascolta e sintetizza. Siamo dal punto. Come la conquista, ma tanti prima hanno provato a restare mette un po' il punto, così. No, è proprio un demiurgo, come la diceva la mitologia, sì. Nel senso che poi lui non crea, ma però dà la forma definitiva. Sì, esatto, bravo. Beaches Brew è la forma definitiva. In A Silent Way è una composizione di Zawinul, che lui comunque rielabora in un modo incredibile, Davis, quindi la capacità, come Mingus, era quella di sapere esattamente chi erano i musicisti giusti nel momento giusto. Zawinul comunque già con Cano Ballad, a parte che lui è austriaco, anche questa è una storia importante, cioè viene da Vienna, ha delle origini anche rom, miste anche lui, e poi si afferma nel mondo della musica, proprio quella, diciamo, black, ma nel senso Dinah Washington, poi Cano Ballad, quindi un gruppo che faceva hard bop dei livelli per un austriaco riuscire, cioè lui sostituiva di fatto Wynton Kelly, non so, pianisti con più blues che c'erano. Un ariano che fa Wynton Kelly, capito? Diciamo. Comunque, insomma, questa cosa però è la chiave anche per capire quella, cioè quello che viene chiamato alter fusion, può essere o meno improprio questa terminologia, però nasce nella cultura del soul, in realtà, diciamo addirittura forse del gospel secondo alcuni, cioè l'unione, diciamo, di diversi mondi musicali in un modo così disinibito, secondo me è un retaggio della cultura afroamericana in generale, come tante sonorità, ovviamente, come tante cose. E poi quello che accade in quegli anni è che c'è il fenomeno del rock, ma anche del rock di un certo tipo, non so, i Cream, questi gruppi che hanno un impatto in realtà notevole, cioè il sound è quello che piaceva ai ragazzi, era quello, il jazz alla fine degli anni 60 era andato in una crisi incredibile, dal punto i jazz, i nightclub chiudevano. E il rock negli anni 70 arriva prorompente. Il rock era prorompente il funk anche per quello che riguarda la comunità afroamericana, quindi James Brown, Sly Stone, quindi insomma questo è quello che accade in questo periodo. Quindi Joe Zawinul chiaramente, e poi i Weather Report nelle varie fasi, perché anche loro hanno avuto, tu lo sai bene, verissimo, momenti molto diversi, cioè sì, dalla sperimentazione post-divisiana, dischi quasi di free jazz, da Black Market fino ad arrivare ai Sing the Body Electric. Sing the Body Electric, ecco. Comunque c'ha delle parti del Live in Tokyo, si chiama, che comunque è duro come ascolto, ma è un ascolto notevole. Poi dopo iniziano a trovare una forma diversa, inserendo elementi del funk, elementi anche diciamo chiaramente latinoamericani, fino ad essere anche un po' più patinati verso la fine. In stile GRP, esatto, sì. Comunque voglio dire, anche questo è un modo diverso di concepire, diciamo, il linguaggio del jazz. Tra l'altro c'è una piccola unione tra Zawinul e Mingus, che è quella sempre delle forme. Quando Zawinul inizia, diciamo, a usare questo gruppo dei Weather Report, fa a livello formale incredibile, cioè i suoi pezzi hanno delle introduzioni, hanno degli interludi, delle forme molto molto ampie e molto complesse anche, quindi una cosa, un elemento comune. Comunque, per concludere, non sarà solo dedicata a lui, perché si cercherà un pochino di assaggiare varie cose, quindi naturalmente un po' anche tutta la vicenda di Davis di quel periodo, perché poi da lì che Beaches Brew adesso clamoroso. Sì, ma poi c'è il discorso anche commerciale, comunque, nel capire il jazz rock, diciamo, chiamiamolo così, perché da una parte Davis aveva proprio un ordine di scuderia, cioè lui doveva fare un disco che vendeva, e Beaches Brew comunque è stato un fenomeno di vendite. Sì. E l'appuntamento sarà sabato 12 novembre ai Sing the Body Electric, dedicato a Joe Zawinul con la partecipazione di Enrico Smiderle.